Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Vedo il mare, Chiara. Eh sì, finalmente siamo alla 56esima edizione del Salone Nautico e c'è anche Mebius. Di Genova, e allora i temi saranno quasi tutti nautici. Sì, quasi. E incominceremo con andar per mare, ma certo con una difficoltà non da poco che adesso vi spieghiamo. Certo, e poi invece andiamo comunque per mare, ma raccontando un po' quella che è la meteorologia nautica e come questa influenza gli umani e ovviamente anche gli sportivi. Poi niente, andiamo via da Genova perché Nova, la rivista di scienze e tecnologie del Sole 24 Ore, organizza un grosso appuntamento a Padova e ve ne parleremo brevemente. Dai, partiamo subito perché ovviamente qui in studio al Salone Nautico ci è venuto a trovare Andrea Stella. Ciao Andrea, benvenuto, ben trovato a Mebius. Ciao a tutti. Allora, tu sei velista, adesso ci racconti tutta la tua storia, rappresenti qui l'associazione Lo Spirito di Stella, e ovviamente questo è il gioco di parole, e Stella saresti sempre tu, perché da un po' di anni insomma porti avanti un'attività davvero lodevole, qui al Salone sei per presentare un'iniziativa che si chiama Wow, di cui ci dirai tutto, stai cercando in qualche modo di sensibilizzare, di portare la comunicazione al mondo di quanto anche la vela sia accessibile per tutti, giusto? Sì, io sono velista da tanti anni, ho sempre avuto la possibilità e il privilegio di andare per mare, quindi questa grande fortuna, e dopo l'incidente ero negli Stati Uniti, mi hanno sparato per rubarmi un'auto presa in affitto, non avevo fatto nulla, sono rientrato in Italia, ho fatto questi 4 mesi di riabilitazione e ovviamente ero depresso e mio padre mi disse: perché non torni per mare, perché non torni a fare le tue passioni? Avevamo le possibilità con un cantiere italiano, Mattia Cecco, abbiamo costruito un catamarano di 56 piedi, quindi un catamarano grande, un 17 signor catamarano metri, completamente accessibile alla sedia a rotelle. Esatto. Oh. E tu sei un velista su sedia a rotelle e l'idea che possa esserci un'avventura marina per una persona che indubbiamente ha questo tipo di difficoltà sembra impossibile, invece no. Sbagliamo a preoccuparci. Io sul catamarano mi muovo sulle ruote come prima mi muovevo sulle gambe. Oh, c'è da dire che Andrea ci ha portato le immagini, le foto, tutte le technicalities del catamarano che metteremo sul nostro blog. Ho invece delle grosse difficoltà spesso a muovermi per una città. Io perfettamente. Due volte ho avuto l'opportunità, ho attraversato l'oceano e quindi mi dicono: sei un eroe quando attraversi l'oceano. No, io dico: sono un eroe quando mi muovo per Milano da solo. Capiamo perfettamente. Ma com'è fatto questo? Cioè, quali sono gli accorgimenti, le diversità progettuali che devi avere su un catamarano progettato per questo, oppure è sostanzialmente lo stesso? Innanzitutto il catamarano di queste dimensioni, un catamarano da crociera, non si inclina lateralmente come una barca a vela tradizionale. Certo. E quindi questo ti permette di muoverti in maniera più semplice, in carrozzina sicuramente, ma anche per una persona in piedi. Poi per risolvere le mie esigenze abbiamo introdotto delle modifiche, cominciando dalla passerella. La passerella è larga 90 centimetri, però queste modifiche non hanno caratterizzato la barca in modo negativo, anzi è diventata più comoda per tutti. Molte persone hanno paura di salire in barca perché la passerella è troppo stretta. Certo. E quindi quando arrivano nel catamarano dicono: finalmente un modo semplice per salire e sicuro. E raccontaci un po' quelle che appunto poi si possono vedere anche sul nostro sito, sul tuo, come ce lo immaginiamo, ad esempio tutti gli spazi anche all'interno, la cabina, la dinette, sono tutti diciamo un pochino più larghi, un pochino più agevoli, ma a vista diciamo assomiglia tutto per tutto a un catamarano standard. Sì, perché il primo intervento è stato quello di adeguare le dimensioni dove necessario. Rispetto al catamarano che normalmente il cantiere costruiva, ci tengo a dirlo, non abbiamo perso degli spazi. Il catamarano che abbiamo costruito ha 4 cabine doppie, 4 bagni, più 2 posti equipaggio. Quindi, no, perché generalmente i bagni per disabili sono molto grandi, oltre che molto brutti e molto sanitari. Ecco, a volte si spreca dello spazio o non lo si mette dove è necessario. Un centimetro mi può cambiare la vita, ma deve essere messo nel posto giusto. Quindi a volte non si fanno degli interventi eccessivi senza trovare soluzione. È vero, tu ci stai dicendo una cosa. Io per esempio avevo parlato tempo fa con un disabile che mi descriveva le toilette per disabili, diceva sono la cosa meno adatta ai nostri problemi. E in particolare tu ci stai dicendo, e questa è la cosa interessante, che se si progetta con intelligenza si ha un oggetto che addirittura in certi punti è migliorativo per tutti. Ottimizza lo spazio. Diventa design for all. Se pensate al telecomando della televisione, è nato per una persona disabile, gli SMS sono nati per i sordomuti, la Iacuzzi è nata per un problema di artrosi di uno dei figli di Iacuzzi. Quindi noi ci siamo arrivati in modo empirico, dovevamo risolvere il mio problema, quello di un altro ragazzo che aveva una distrofia, quindi con problemi agli arti superiori, e alla fine è risultato veramente un progetto di universal design o di design for all, tanto che ho sentito il bisogno di far nascere un'associazione che si chiama Lo Spirito di Stella, per dire: se si può progettare una barca per tutti, si può progettare una città per tutti. Certo. Io vado in vacanza a Miami, mi hanno sparato a 50 km per una colpa non mia, ma il senso di libertà di scegliere un ristorante perché mangio bene e pago il giusto supera perché tutto questo. Certo. E raccontaci appunto con Lo Spirito di Stella questa iniziativa che tu stai per intraprendere. Wow è l'ultima l'iniziativa che partirà l'anno prossimo, diciamo l'ultima in ordine cronologico, perché per 9 anni noi abbiamo dato l'opportunità ogni anno a circa 800 persone, in totale 5.000, di vivere una giornata di mare sullo Spirito di Stella in completa indipendenza, autonomia e gratuitamente. Per chiunque. Possiamo venire anche io, Federico? Sì, adesso è un progetto che è cominciato nel 2003 e è finito nel 2011. Poi in Italia abbiamo creato questi sailing campus, quindi con delle barche di 3 metri, guidabili da persone completamente paralizzate, addirittura con un joystick o con un sistema a soffio e tiro. E questi campus hanno però l'obiettivo di essere fatti non solo dallo Spirito di Stella, ma da tante associazioni che si occupano di disabilità, di modo che quando Lo Spirito di Stella se ne va via non rimane niente. Hanno aderito all'iniziativa. Ma anzi, l'associazione locale può continuare a farla crescere. Sì. Wow cos'è? Wow è la volontà di portare un documento molto importante che si chiama Convenzione dei diritti della persona con disabilità. Un documento che permette di risolvere molte cose anche dal punto di vista giuridico in un paese arretrato da questo punto di vista come è l'Italia. Allora abbiamo scritto a Papa Francesco, abbiamo detto: ci piacerebbe tanto fare un viaggio da Miami, partendo da Miami, dove c'è il più grande centro di riabilitazione sui traumi spinali al mondo, passando per New York, ritirando questa carta e arrivando da lei a Roma e consegnandogliela. Un viaggio che però non è di Andrea Stella, un viaggio che sarà fatto dallo Spirito di Stella, 12 saranno le tappe e 12 saranno gli equipaggi. Noi a Genova siamo qui per lanciare questo messaggio, chiunque può candidarsi. Che partirà nel 2017, aprile 2017, ma le selezioni e le candidature cominciano proprio oggi, da qui, da Genova. Okay. E nell'aprile 2017, terminerà a settembre 2017, potranno partecipare persone abili, ma anche disabili, cioè disabili, ma anche abili. Mm-hmm. Per persone tutti. Che hanno voglia di raccontare questa storia. Ognuno avrà un ruolo a bordo, perché ognuno deve contribuire alla navigazione, che può significare anche raccontarla, fare da mangiare, quindi ognuno avrà un compito. Testimone al completo. E possono partecipare a amatori, non solo professionisti velisti con esperienza? No, assolutamente no, può partecipare chiunque ne ha la voglia, ne ha la voglia di confrontarsi, di mettere la propria competenza, la propria passione a disposizione di un gruppo. Il senso è che una barca è come la vita: se c'è un obiettivo, c'è un'organizzazione, non conta il colore della pelle, non contano le abilità, certo. Non conta chi siamo, conta che in gruppo possiamo raggiungere questo scopo. Allora Andrea, metteremo tutti i tuoi contatti, ricordaci velocissimo il sito per poter aderire e avere tutte queste informazioni. lospiritodistella.it oppure wowwheelsonwaves.com. Okay. Iscrivetevi. Va bene. Ci sentiamo dalle Azzorre la prossima volta. Ma farete tappa magari. Lì. Sicuramente. Prima tutta la East Coast, poi Azzorre e poi avanti. Ci risentiremo senz'altro. Grazie davvero. Ciao, Andrea. Ciao a tutti. Ciao Radio 24. Un bocca al lupo. Non abbiamo ancora le notizie sul traffico marino, ma quello sulle strade invece le abbiamo. Sì, le abbiamo. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il mare influisce molto sul clima, ovviamente del mare, ovviamente delle coste, ma anche delle terre interne. Però noi restiamo su clima e mare, e c'è un signore, un ricercatore, che studia come questo clima generato dal mare influisce sugli esseri umani. Si chiama biometeorologia, forse non è un tema mai trattato, sì, qui a Mebius, e abbiamo deciso di parlarne qui al salone perché influenza anche ad esempio gli sportivi che fanno nautica, esatto, che fanno gli sport appunto legati al mare. E qui con noi c'è Alessandro Pezzoli. Buonasera Pezzoli. Buonasera. Lei è docente di gestione del rischio meteorologico all'Università di Torino, è ingegnere al Politecnico di Torino e appunto si occupa di biometeorologia, abbiamo detto bene io e Federico, e però qui ci deve insomma spiegare un pochino in che modo ovviamente la meteorologia influisce sugli umani, ma anche dal punto di vista fisiologico. Com'è, sì, questa cosa? Le basi di questa scienza. Sì, la biometeorologia è un settore della meteorologia recente, di recente sviluppo, e sta prendendo sempre più piede grazie anche alla diffusione delle grandi epidemie, alle isole urbane di calore. E noi studiamo come il clima e l'ambiente meteorologico influenza la salute umana. Nella fattispecie, in particolare per rimanere legati all'ambiente del mare, uno anche delle attività di ricerca che noi sviluppiamo è la verifica di come non solo viene influenzata la salute umana dall'ambiente meteorologico, ma anche la performance sportiva. Certo. Già. E che tipo, però, in generale, poi dopo arriviamo agli sportivi, ma in generale che tipo di climatologia marina voi riscontrate, cioè ci faccia qualche esempio, come effetto appunto sulla salute e sul comportamento umano, cambiando appunto il clima, in che modo cambia l'influenza diversi. Sì, chiaramente il cambio del clima, soprattutto il cambio delle temperature, sta generando nelle aree urbane, che siano esse costiere o interne, dei riscaldamenti legati proprio a quelle che noi chiamiamo le isole urbane di calore. Anche e nella fattispecie per urbanizzazioni successive può in area costiera anche cambiare il regime dei venti. Ricordo per esempio quello che avevamo osservato durante le Olimpiadi di Atene, come a causa di un'eccessiva urbanizzazione della stessa città il Meltemi, che comunque è il vento che d'estate rinfresca e quindi rende più gradevole la vita nella città, e questo Meltemi è diminuito in frequenza moltissimo. Quindi cambio del clima, cambio dell'urbanizzazione può generare un cambio a livello micrometeorologico locale, che può poi portare un discomfort alle persone. Giustamente lei dice micrometeorologico, perché non parliamo di, sì, certo, parliamo dei grandi cambiamenti, ma anche dei micro cambiamenti, ed ecco qui l'influenza che proprio ha nello sport. Lei addirittura fa parte di equip sportive, ha partecipato a 3 Coppe America di vela, alle Olimpiadi di Rio era insomma insieme alla squadra svedese, proprio perché appunto in che modo lei dà il suo contributo? Sì, come dicevo prima, nell'ambito della meteorologia applicata allo sport, che è un settore di nicchia della biometeorologia, in particolar modo della biometeorologia umana, noi andiamo a verificare come queste condizioni meteorologiche possano influenzare la performance sportiva. Lavorando su diversi fronti, dal comfort termico sugli sport outdoor più di resistenza, così come sulla strategia sportiva legata invece per esempio di più agli sport di posizione, agli sport strategici come per l'appunto la vela. In questo caso noi ci concentriamo sullo studio del regime dei venti, sullo studio delle aree di regata, e cerchiamo di valutare come, diciamo, in funzione dell'orografia locale le condizioni meteorologiche possono cambiare e di conseguenza nelle varie aree, e di conseguenza andiamo a valutare la migliore strategia per le diverse condizioni meteorologiche. Ecco, ci spieghi bene questo aspetto. In effetti, per esempio, nelle gare, adesso la Coppa America non è più come era una volta, ma insomma nelle gare lunghe di mare ci sono vari adattamenti che vengono fatti a seconda della giornata, no? Di come si presenta la giornata, tipicamente venti e stato del mare. Ma voi riuscite a dare anche delle indicazioni che mettono in rapporto il clima e quindi che cosa è meglio si aspettino gli equipaggi, magari perché gli viene dato, che ne so, adesso dico probabilmente una scemata, degli integratori o l'attenzione anche dell'abbigliamento, non lo so, diverso. L'abbigliamento, questo? Sì, sì, ovviamente l'analisi che noi facciamo è a 360 gradi, come dico, nello specifico della vela noi lavoriamo molto ovviamente sulla strategia, perché per lo sport della vela è molto importante, diciamo, l'aspetto strategico, quindi prendere il bordo giusto in funzione delle oscillazioni e delle variazioni, degli shift, quindi del vento. Ma in altri sport, tipo per esempio ciclismo piuttosto che sport di endurance, lavoriamo tantissimo anche molto con i colleghi del settore tessile per lo sviluppo degli abbigliamenti che sempre di più vengono studiati nel particolare per creare nuovi tessuti, nuovi filati che consentano il migliore effetto, quello che noi chiamiamo effetto pumping, cioè la migliore traspirazione, la migliore sudorazione e quindi il miglior comfort dell'atleta. A livello vela nell'ambito delle grandi regate, cioè delle grandi regate di altura, sì. Il nostro contributo è anche per lo sviluppo dell'abbigliamento, ovviamente, oltre che per lo sviluppo dell'imbarcazione delle vele. Degli strumenti, certo. Per la parte chiaro, più tecnologica. Quella, diciamo, che ci immaginiamo tutti. No, la cosa interessante è che questa disciplina di cui, insomma, lei fa ricerca, di cui si occupa, è interessante da questo punto di vista, dal punto di vista della gestione anche delle città, e ci raccontava anche del turismo. Sì, un altro settore molto importante della bioclimatologia è proprio quello della climatologia applicata al turismo, settore che tra le altre cose dal punto di vista della gestione del rischio meteorologico, ovvero dell'impatto delle condizioni meteorologiche nell'ambito economico, sull'aspetto economico, è un settore che sta prendendo sempre più piede. Chi non si va a dimenticare l'estate di 3 anni fa, quando praticamente, non dico che abbia quasi sempre piovuto nel nord Italia, ce lo ricordiamo. Ma, prevalentemente, oppure il passato inverno senza neve. È facile immaginare e capire nelle montagne italiane, ma non solo, anche nelle montagne europee, è facile capire come l'aspetto economico di tutta l'industria del turismo ne sia fortemente influenzata. In questo ambito abbiamo per esempio sviluppato una ricerca molto approfondita con un'importante marina del Ponente Ligure, sì, in provincia di Savona, su come l'aspetto climatico possa influenzare l'ambito industriale del diporto nautico e come possa reagire la stessa azienda per adattarsi a questo cambiamento. Va bene, allora buona ricerca a Pezzoli davvero, e insomma saluti qua dal salone. Arrivederci. Grazie, arrivederci, buonasera. 30 settembre, 1 ottobre, Luca De Biasi, responsabile di Nova, avete organizzato un meeting densissimo a Padova, ovviamente di cose di scienza e tecnologia. Sembra un grande mini festival, ma in realtà c'è un filo conduttore, e poi vedremo un po' degli appuntamenti che lega tutto. Qual è? Ma sai, non è un festival, è un tentativo di lavorare insieme sul tema della open innovation, dell'apertura dell'università alla società locale e internazionale, nell'idea che alla fine dei conti l'università ha una terza missione, ce l'ha, ed è quella di essere al servizio della società, dell'economia, della politica del nostro paese, e questa terza missione non la sviluppa tantissimo, o comunque se la sviluppa non si sa un sacco che cosa succede. Questo festival, non festival, questa Open Innovation Days serve per aiutare l'università a spiegarsi meglio, a connettersi praticamente lavorando insieme con imprenditori, cittadini, studenti, per scambiare la conoscenza che serve in questo momento a fare crescere il paese. Tu dici non bisogna dare come fisiologico il fatto che certo l'università poi produce conoscenza che viene applicata, bisogna fare molto di più perché c'è una grande potenziale che non è espresso, insomma. Se io ho sviluppato una conoscenza e non te lo dico, non ti aiuto a conoscere. Dici qualcosa dei 300 appuntamenti che avete messo in piedi. Certo. Per lavorare alla terza missione, per lavorare alla connessione tra l'università e la società, noi abbiamo cercato di sviluppare dei format che servono a migliorare la comunicazione tra l'università e la società da un lato, e dall'altro mettere a lavorare concretamente insieme imprenditori, cittadini, ricercatori su temi. Allora, per quest'ultimo fatto la struttura ormai da 10 anni è quella del Bar Camp, diciamo così, e tutte le sue derivate. Ci sono 30 tavoli, vengono prenotati, si iscrivono le persone sulla piattaforma online che è aperta, si lanciano i temi e partecipano le persone. Su online si lanciano questi temi, al tavolo si decide qual è la cosa giusta da dire. Quello che verrà detto come cosa giusta andrà su Nova una settimana dopo. I tavoli della ragione, perché si svolgono al Palazzo della Ragione. Al Bo ci sarà, daremo conto delle grandi contributi che la scienza sta dando e che ci cambiano la vita nell'ambito del climate change, nell'ambito della nuova salute, la biomedicina, medicina personalizzata, gene editing e tutto quel mondo lì, e poi il rapporto tra democrazia e informazione, che nel mondo di internet è sottoposto a forti sollecitazioni. Infine, all'Orto Botanico, le cose di divulgazione, le cose di connessione più emotiva. Ci sono delle iniziative di ragazzi che insegnano PhD di fisica, che insegnano scienza ai bambini con sistemi simpatici e molto spettacolari. Ci sono delle lezioni sui grandi scienziati e c'è la prima o quasi mostra del documentario scientifico in Italia, dove ci sarà James Redford, che è un appassionato di documentari di medicina. Il suo film in questo caso è un film sulle importanza dei traumi infantili per la vita delle persone. Poi ci sarà un'anteprima del film di Herzog su internet, grande critico, bellissimo film. E poi ci parla di un'inchiesta sul virus Stuxnet, che è stato effettivamente realizzato dal governo americano per attaccare una centrale nucleare iraniana tempo fa. E poi molti altri film nella rassegna del documentario scientifico. Che potrebbe diventare un primo appuntamento, no? Lo speriamo, sì. Fare nei prossimi anni. Tutta questa roba, dove vanno in rete a trovare il programma, le date, gli orari? La più facile è ilsole24ore.com/OID. OID? Open Innovation Days. OID. Okay. OID. Va bene. Grazie e buon lavoro. Grazie. Lo seguiremo anche noi. Bello lo studio sul mare, però adesso noi ci tocca tornare nell'interno. Anche questa 56esima edizione per noi del Salone Nautico è finita. Buona settimana a tutti e a tutte. Ciao.